Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Attenti a quei due, già dal loro aspetto notiamo che hanno qualcosa di diverso e vedendoli al lavoro capiamo subito che sono destinati a compiti particolari. Per questo, cari amici, meglio tenerli d'occhio. Signori e signori all'ascolto, ecco a voi Pollice e Alluce. Ne parliamo oggi con il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario fisiatra della riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Dottore, bentornato e buongiorno. Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a te, Nicoletta. Dottore, Alluce e Pollice si differenziano dalle altre dita per forma, dimensione, funzione e anche per numero di falangi. Infatti ne hanno due anziché tre e non è un caso, un errore, ma è tutto calcolato. Ma direi di sì, hanno una funzione che si differenzia in modo sostanziale dalle altre dita. Il fatto che abbiano due falangi addirittura ha portato alcuni a non considerarli delle dita, soprattutto il pollice. Alcuni dicono che non deve essere considerato un vero e proprio dito. E come lo consideriamo? In realtà, insomma, mi sembra un po' un discorso che ci interessa relativamente. Quello che ci interessa invece è la funzione che queste certo. due dita, perché io le considero due dita, che queste due dita hanno. Hanno una funzione straordinariamente importante sia per quanto riguarda la locomozione. Vedremo nel corso della puntata quanto l'alluce, quindi il primo dito del piede, sia importante proprio per la spinta propulsiva, perché è l'ultima porzione del nostro corpo che prende contatto al terreno prima dello stacco del piede a terra e quindi viene caricato di sollecitazioni enormi e deve essere in perfetta forma per permetterci di vivere e di mantenere le nostre attività, anche le comuni attività quotidiane. Il pollice naturalmente della mano è straordinariamente importante perché ci permette la prensione, ci permette certo. di afferrare gli oggetti e si comporta in maniera totalmente diversa rispetto alle altre dita. 800 24 00 24, se volete parlare con noi di pollice e alluce. Dottore, l'importanza di queste due dita nell'equilibrio e nella funzione rispettivamente del piede e della mano spiega il motivo per cui alcuni disturbi tipici di queste due dita compromettono la salute delle dita vicine. Certamente condizionano il comportamento delle altre dita. Se pensiamo a una disfunzione del pollice, per esempio, la più comune è l'alluce valgo, sì. quindi la deformazione in valgo del primo dito del piede. La cipolla, esatto. Questo comporta anche una disfunzione e un'alterazione di posizione e di funzione anche delle altre dita, soprattutto del secondo dito, ma non solo, condiziona in maniera importante una disfunzione dell'alluce anche tutto il comportamento del piede e anche oltre, e, certo, e arriviamo fino al ginocchio, arriviamo fino all'anca e alla schiena, e così è per quanto riguarda anche il pollice se non è in perfetta forma, vale a dire se presenta rigidità oppure presenta dolore, non ci permette di afferrare le cose, ad esempio. Quindi anche le altre dita possono andare in sofferenza. Abbiamo intitolato la puntata Attenti a quei due e direi che il titolo è appropriato. Per questo, dottor Melegatti, credo che possa essere utile fare una sorta di tagliando in diretta con i nostri ascoltatori, che sono naturalmente invitati a chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24. Dottore, che cosa le stressa? Ma innanzitutto un uso eccessivo e abbiamo visto soprattutto negli ultimi tempi, adesso noi viviamo una fase della nostra vita nella quale siamo costretti ad avere a che fare con i telefonini cellulari, sì. e quindi abbiamo un uso esagerato del primo dito, del pollice, che deve essere sempre attivo per mandare messaggini, per comporre numeri su tastiere sempre più piccole, sì. e quindi si vedono ragazzi adesso che passano ore della giornata a scrivere sul proprio telefonino, e questo crea sicuramente uno stress che è uno stress più che articolare, soprattutto tendineo, e quindi possiamo avere tenosinoviti, vale a dire infiammazioni proprio di quei cordoni, di quelle strutture che permettono il movimento. Mentre per l'alluce lo so che mi dirà le scarpe, vero? Sicuramente le scarpe troppo morbide o troppo rigide possono influenzare e danneggiare le strutture che tengono unite le falangi che compongono il primo. E quindi a cosa dobbiamo fare attenzione? dobbiamo fare attenzione ai primi segnali, segnali che possono essere segnali di dolore a livello per esempio dell'alluce o di iniziale rigidità. Questo avviene nelle persone un po' più in là con gli anni, ma non è detto, perché anche sportivi giovani possono andare incontro a problemi di rigidità del primo dito. La rigidità del primo dito o il dolore del primo dito fanno sì che l'appoggio risulti alterato e quindi... E quindi vengono innescati dei compensi che portano ad altre patologie. Chi deve prestare particolarmente attenzione? Tutti noi, attenti a quei due, vale per il ragazzino, per il manager, per lo sportivo, ma dottor Melegatti? Soprattutto persone che camminano molto, per quanto riguarda l'alluce naturalmente. Ci sono persone che amano camminare e che persone che devono camminare tanto per lavoro o persone che fanno attività sportiva molto frequente, come per esempio la corsa. Eccolo. Quindi agli sportivi 800 24 00 24 raccontateci come sta il vostro alluce oggi in diretta. Il linguaggio non è fatto solo di parole, si può dire qualcosa anche senza parlare. Se per esempio uno si gratta i capelli mentre parla, ha i pidocchi. Potrebbe, ma tendenzialmente sta mentendo. Un'altra cosa è giocherellare con il bicchiere del caffè. Serve a deviare l'attenzione di chi ci ascolta nella speranza che non si accorga che stiamo dicendo una bugia. Oh, e chi dice la verità? Tiene le braccia a cerchio, mostra spesso le mani, tocca lo spazio circostante, si appoggia alle pareti. Insomma, ha un po' tutto sotto controllo. Coi piedi sarà un po' duro, ma con le mani noi parliamo. E il pollice è particolarmente loquace. Il pollice verso l'alto nei paesi anglofoni indica il numero 5, mentre per gli europei vale come 1. Laddove in molte parti del mondo significa va bene, può essere considerato un insulto in paesi come la Turchia e la Grecia, se spinto in avanti. Non dimentichiamo che è il gesto universale al quale ricorrono gli autostoppisti per chiedere un passaggio. A livello psicologico è il dito che rappresenta il controllo. Con esso si possono gestire e manipolare gli oggetti, influenzando in questo modo l'ambiente circostante. Anche succhiarsi o mettersi in bocca il pollice segnala una ricerca di sicurezza. Il pollice è anche indicativo nelle strette di mano. Se vengono effettuate con il pollice in alto che si pone con forza sopra la mano altrui, è indizio di un carattere forte, a volte prevaricatore. Se un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo la mano e prendi la mano e dammi la mano. Sulla comunicazione pollice batte, alluce 1 a 0, ma anche l'alluce può dire la sua. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giovanna Luini, buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Insomma, anche l'alluce e le dita del piede, dottoressa Luini, hanno il loro fascino e le loro peculiarità. Ah sì, ho trovato tantissime cose interessanti. Intanto mi sono fatta da sola una diagnosi di rischio di problema cardiocircolatorio, perché chi ha il secondo dito più lungo rispetto all'alluce del piede sinistro vive in maniera iperattiva e potrebbe avere problemi cardiaci. Però al di là di questo, ho scoperto che l'alluce del piede destro esprime di norma la gioia, mentre l'alluce del piede sinistro esprime il rammarico. E qui già c'è una bella divisione tra destra e sinistra. Il piede destro è un pochino più legato però alla razionalità rispetto al piede sinistro. Le dita dei piedi hanno dei significati che mi hanno stupito, perché l'alluce sembra dominare, quindi anche perché è grosso, funziona anche così nella vita, no? Quelli grandi e grossi alla fine. Esatto, stabiliamo dei parallelismi vari, non tutti diciamo discutibili in questa fascia oraria. Comunque l'alluce domina su tutto, domina a quanto pare anche sull'ambizione, che è più indicata di solito dal secondo dito, domina sull'emotività e in fondo caratterizza tutta la sfera emotiva e razionale della persona. Un elemento interessante è che se qualcuno ci sta parlando e mentre parla incurva verso l'alto gli alluci, significa che sta un po' esagerando, cioè amplifica quello che sta dicendo. Non dico che stia mentendo, però forse ci mette un carico eccessivo. Invece chi riesce a separare le dita dei piedi è un pensatore analitico. Ho notato che non tutti riescono, per esempio a me riesce, ad altri è impossibile. È vero, dottor Melegatti, come mai questa differenza? Questo dipende dalla innervazione che è individuale, e quindi ciascuno ha la propria innervazione e la propria capacità proprio di muoversi singolarmente. Dottoressa. Un'altra cosa interessante è che chi ha le dita dei piedi, in particolare l'alluce, curvate verso l'alto, è un sognatore e pensa pochissimo agli aspetti pratici della vita. La persona che ha tatto e diplomazia ha le dita un po' più tondeggianti, anche se poi la sera tende a sfogare lo stress a casa con il partner, quindi è diplomatico ma non fino a un certo punto. Esatto. Invece chi ha le dita ad artiglio e l'alluce un po' più appuntito ed affusolato si adatta spesso alle idee e alle opinioni degli altri. Chi invece ha delle piccole pieghe sull'alluce non accetta mai che si dica di no e fa sempre a modo suo. Quindi il consiglio è guardate l'alluce anche del vostro compagno per capire qualche cosa di più di lui o della vostra compagna. Sì, le relazioni migliori forse si stabiliscono d'estate perché indossiamo sandali, altrimenti è un po' difficile. Dottoressa, anche le unghie forniscono informazioni su una persona. Sì, le unghie possono mostrare l'aspetto decisionale della persona, la sua razionalità. La forma delle unghie può indicare come quella persona è, però da medico voglio anche ricordare che le unghie hanno un ruolo molto importante nella diagnosi di alcuni disturbi, per esempio alcune carenze di calcio oppure alcuni deficit respiratori. Le unghie possono assumere un colore diverso, una consistenza diversa, possono avere macchie oppure piccoli solchi, piccole righe, e questo può indicare in effetti un deficit oggettivo del corpo, quindi rappresentano uno strumento di diagnosi reale. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Com'è a lei l'alluce? Il mio alluce è un po' più corto rispetto al secondo dito, molto arrotondato e con qualche piega, quindi attenzione a dirmi di no. Buona giornata. Grazie, buongiorno. E buona giornata a Tiziano che ci chiama da Monza, buongiorno. Buondì, congratulazioni per la trasmissione. Grazie. Senta, io per l'attività che svolgo compilo spesso bollettini a mano, no? Compilo con la Biro. E se lo faccio per parecchio tempo, a un certo punto mi duole la parte, diciamo, i tendini del pollice. Senta, ma Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, si sta preoccupando. Lei fa il vigile? Però qualcosa di simile. Ecco. Qualcosa di simile. Ci ha preso, però, mamma mia. Speriamo di non incontrarla, Tiziano. Anzi, teniamolo occupato al telefono, dottor Melegatti, così non fa una multa. Sì, dunque, questo è un problema che può succedere purtroppo, ne accennavo prima, è l'overuse, è il sovraccarico delle strutture tendine che stanno intorno al pollice, e allora per evitare questo naturalmente bisogna prendersene cura, e un po' di stretching non farebbe male, vale a dire un paio di volte nella giornata cercare di afferrarsi il pollice e tirarlo lentamente verso l'esterno, verso di sé, se consideriamo di avere la mano dinanzi a noi di taglio. Sì. E tiriamo verso il polso. Esatto, verso il polso, tiriamo il pollice verso di noi, contiamo fino al 20 e poi lo rilasciamo, e questo lo facciamo 4-5 volte, e poi la sera magari prendiamo un cubetto di ghiaccio e lo passiamo lentamente lungo il tendine, proprio sotto il pollice dove sentiamo dolore. Bastano 2-3 minuti per abbassare un po' il livello di infiammazione del pollice, e poi chiaramente un po' meno multe. Licia, buongiorno da Torino. Buongiorno dottore, chiamo per mio marito che anche lui problema ai pollici. Buongiorno. Già sono 2-3 anni, le ha fatto fare il fissiato, infiltrazione. Licia, quando torna a casa suo marito gli faccia fare gli esercizi che ha suggerito il dottor Melegatti, tirare il pollice indietro verso il polso e poi cubetti di ghiaccio a massaggio. Emilia da Napoli, buongiorno a lei. Salve, buongiorno Nicoletta, buongiorno. A tutti, grazie di avermi chiamato. Allora, io ho questo problema che da qualche anno non posso mettere più le scarpe, quelle normali, con un bel vestitino sopra, no, devo mettere soltanto scarpe sportive con i lacci, però apparentemente io ho dei piedi, diciamo, quasi perfetti, nel senso che non ho nessun problema evidente, un piede molto magro, però quando metto anche per poche ore, anche se non ci cammino ma sto soltanto seduta, delle scarpette, diciamo, scarpette. Le scarpette lei vuole dire quelle con il tacco, quindi No, anche senza tacco, è la forma quella che conta. Mi si traumatizzano le dita, soprattutto il dito mignolo, e ho dei dolori fortissimi che poi durano per settimane. Certo che è una bella seccatura, dottor Melagatti, perché indovinare la scarpa giusta non è semplice. E infatti, però, solo Cenerentola stava con quella bella scarpetta di cristallo. Se no, ci sentiamo tutte con le sorellastre che con questo piedaccio cerchiamo di spinto a forza in una scarpa non appropriata. Ma, ecco, Emilia ci racconta una situazione che è abbastanza frequente. Ci sono persone che fanno molta fatica a indovinare, a trovare la scarpa adatta al loro piede, nonostante il piede non abbia particolare deformità, chiamiamole così. Quindi meglio affidarsi, come sempre, a Mania. Deve essere morbida? Sì, deve essere morbida, ma non troppo, nel senso che deve rispettare, deve sostenere il piede una scarpa, e quindi non può essere totalmente morbida come ad esempio una ballerina, perché non dà sostegno, soprattutto nella parte posteriore del piede. E se la parte posteriore, vale a dire se il calcagno, non è ben stabilizzato, possiamo avere problemi anche nella parte anteriore del piede. E poi la scarpa deve avere un minimo tacco e deve avere una suola che non sia totalmente morbida, ma che neanche sia molto rigida, quindi una suola di cuoio può andare bene, però deve essere flessibile il giusto. E poi la punta, non deve essere a punta la scarpa, o meglio, la scarpa a punta, soprattutto poi se prevede un tacco un po' altino, fa sì che il piede scivoli in basso e che costringa le dita ad assumere la forma della punta della scarpa. Sì. E questo non va bene, quindi scarpe possibilmente un po' arrotondate. Poi teniamo presente che esiste una sensibilità individuale a livello dei piedi, ciascuno poi risponde a suo modo. Ci sono persone che hanno più sensibilità e altre invece magari che sono abituate a camminare più scalze, certo, o che l'hanno fatto da bambini, hanno più resistenza. Abbiamo aperto una piccola finestra sulle scarpe per gli adulti, parliamo anche delle scarpe per i bambini, dottor Melagatti, perché arrivano numerose sms al 349-238-6666. Bambini, piedi piatti, è normale, fisiologico, fino a 3 anni, 4 anche anni, più, anche un pochino anche di più, ma le mamme si interrogano qual è la scarpa migliore per un bambino che ha ancora il piedino piatto, deve essere rigida, morbida. Le scarpe da ginnastica che sono piatte, i bambini piacciono molto, si sentono liberi e vanno bene, deve essere alta. Deve essere una scarpa, come dicevo prima, che dia un certo sostegno, soprattutto nella parte posteriore del piede. Le scarpe da ginnastica, in genere le marche conosciute forniscono dei buonissimi prodotti, perché rispettano la fisiologia del piede, e dietro a queste scarpe ci sono degli studi importanti. Quindi sempre considerare scarpe di marca, anche se costano un pochettino di più, e che abbiano una struttura, che siano consistenti. Non fate portare ai bambini scarpe quelle scarpe di tela che non hanno la minima consistenza, che sembrano dei guantini. Esattamente, ecco. Non voglio parlare di marche naturalmente, però tutti le conosciamo. E quindi la scarpa deve avere una sua struttura, e nel dubbio chiedete a un consiglio a uno specialista. Essere e benessere. Alluce e pollice guidano il benessere delle nostre mani e dei nostri piedi, ma non solo. Ne parliamo oggi con il dottor Melagatti. Dottore, alluce e pollice però possono arrugginirsi, diciamo così, o forse sarebbe più corretto dire che possono logorarsi. Così la presa diventa più difficile se il problema interessa il pollice, se invece farne le spese l'alluce, l'appoggio può diventare faticoso e dolente. Possiamo prevenire, possiamo evitare che questo succeda? Certo, li usiamo, abbiamo visto, tanto, certo, anche per mandare messaggi al 349-238-6666, ma... Sì, possiamo prevenire, anche se la prevenzione in questo caso non sempre funziona come in altri... come in altri ambiti. Mi riferisco per esempio ai traumi, quindi il problema degenerativo sia a livello del pollice, del primo dito del piede, del primo dito della mano, spesso sono causati da un problema traumatico che è arrivato. Un problema traumatico, per esempio, banalmente sciando per il pollice della mano, o un problema correndo per l'alluce, e questo crea instabilità, e l'instabilità nel tempo porta a usura delle superfici articolari, quindi della cartilagine, delle articolazioni, che porta a artrosi. E quindi la prevenzione in questo caso, naturalmente, al di là della prevenzione dell'attenzione in certe situazioni come nella corsa o nel gioco del calcio, l'attenzione deve essere posta alle scarpe, ai terreni che si utilizzano, così come deve essere posta attenzione, mi viene in mente per esempio l'alluce, il dito dello sciatore, è una lesione, noi chiamiamo la lesione di Stenner, che è una lesione legamentosa, capsulo legamentosa del pollice, che è la classica caduta sul bastoncino. Sì. Allora esistono adesso racchette da sci che prevedono lo sgancio rapido dell'accetto per evitare che la persona cada sul proprio bastoncino. Pasqua ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno e grazie per tutte le belle trasmissioni, grazie. Grazie a lei. Volevo chiedere un consiglio, ho due figlie, una suona l'organo e l'altra suona il pianoforte, per cui le dita sono tutte importanti, ma naturalmente anche il pollice. Certo. Ecco, qualche consiglio pratico? Ma il consiglio è quello di mantenere la mobilità delle dita e di fare dei piccoli esercizi di rinforzo per i muscoli della mano, anche per chi suona, che non devono essere naturalmente esercizi strenui, ma mi viene in mente una piccola pallina antistress da utilizzare un paio di volte alla settimana, sì, con lentezza e con delicatezza, facendo magari una ventina di prensioni di questa pallina antistress, potrebbe essere un buonissimo allenamento per le mani. Questo va bene per tutti, non solo per i musicisti, e quindi si riduce anche un po' lo stress. Certamente. Infatti sono nate come palline antistress. Certamente. Vincenzo, buongiorno da Brescia. Allora, io ho subito un pestone al pollice, cioè all'alluce del piede sinistro. Gioca a calcio, ecco. Sì, è un classico, calcio. Vincenzo. Amatoriale, mi è venuta via la lunghia. Sì. Non la lingua. Perché sarebbe stato veramente una cosa terribile. E adesso mi ricresce un'unghia molto più spessa, ma tanto spessa. E non l'alluce, è molto fragile. L'alluce del calciatore. Sì, è una situazione molto molto frequente quella della lesione ungueale, quindi bisogna tenerla da conto l'unghia, bisogna vedere un podologo ogni tanto, magari una volta ogni paio di mesi, per sistemare quest'unghia, per limarla, per evitare che diventi troppo spessa e che alteri un po', che riduca troppo lo spazio all'interno della scarpa. E questo è stato un pestone, quindi un caso fortuito che non ha niente a che fare con il tipo di calzatura, eccetera. Quindi è un piccolo incidente, ma abbastanza frequente, certamente, molto frequente. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Varese. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Io ho un problema di dito a scatto, pollice, sì, della mano destra, e ho 48 anni. Sto cercando di capire se sono problemi reumatici, per cui sto facendo delle analisi anche per vedere se sono problemi reumatici. Ma so che si può fare l'operazione, ma ovviamente prima di fare l'operazione volevo capire se era possibile provare... Evitare, esatto. Certo. E Alessandro, quindi ci spiega, dottor Melegatti, lei che conosce bene il dito a scatto, in che cosa consiste? Cioè, rimane piegato e non riesce a tendersi? Sì, è la struttura all'interno della quale scorre il tendine che diventa troppo stretta, non sì, perché si restringe questa struttura, ma perché si allarga il tendine in quanto infiammato, perché magari sollecitato troppo. Adesso, al di là della terapia per ridurre questo problema, qui bisognerebbe capire perché questo dito a scatto è arrivato, sì, se è stato un problema da sovraccarico oppure no. E comunque la terapia, prima di pensare all'intervento chirurgico, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un ortopedico, a un fisiatra che abbia esperienza in questo tipo di patologie, e magari effettuare una o al massimo due piccole infiltrazioni. meglio se ecoguidate. Fabio, dalla provincia di Como, e poi andiamo sulla nostra cipollona, se si può evitare o che cosa si deve fare. Fabio, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi della trasmissione. Volevo porre una domanda al professore. Alcuni anni fa, circa 6 anni fa, mi hanno diagnosticato, l'ortopedico, l'alluce del piede destro, che cominciava a farmi male, l'alluce rigido. Diciamo che è stato sconsigliato un po' l'intervento, chirurgico, e volevo sapere se appunto questo era d'accordo, quali erano comunque i consigli da dare a chi piace appunto camminare, fare sport. Perché la luce rigido, dottor Melegatti, è un problema, perché se la luce è così importante, perché come lei ha detto, l'ultimo punto, certo, del nostro organismo, quando che appoggiamo, che sentiamo quando, prima di muovere il passo, il piede, di staccare, certo, sicuramente averlo lì fermo, rigido, questo non aiuta. No, crea un grosso problema la luce rigido, proprio perché non è più capace di assorbire tutta la spinta propulsiva dell'organismo per effettuare il passo, e quindi il piede per forza va incontro a una sorta di adattamento, non si carica più l'alluce nella fase della spinta, e quindi si appoggia il piede in maniera scorretta. Quando l'alluce diventa molto rigido non ci sono soluzioni, sfortunatamente, ma però quando inizia a diventare rigido, allora vale la pena di occuparsene in maniera importante, utilizzando delle terapie fisiche che sono utili, che possono abbassare l'infiammazione, e utilizzando anche delle tecniche manuali di manipolazione, di mobilizzazione effettuate da qualche terapista, e poi la scelta della calzatura. Quali sono i primi segnali che l'alluce sta diventando rigido? Il dolore e la difficoltà a salire proprio sulla punta delle dita nella fase conclusiva del passo. Prima della spinta, prima dello stacco del piede da terra, si può avvertire un problema di dolore e di limitazione di questa mobilità. Quindi possiamo fare anche noi una sorta di autotest, quando a metterci ogni tanto appoggiare, naturalmente non sulle punte, ma insomma cercare di stare un po' in punta di, certo, piedi. Certo, oppure semplicemente stare sdraiati e afferrare l'alluce e vedere quanto liberamente si muove, forzandolo lentamente in flessione ed in estensione, e di fare il paragone con l'alluce controlaterale dell'altro piede sano. Se ci accorgiamo che c'è una grande differenza di mobilità, e se la fine del movimento articolare provoca dolore, allora questo è il momento di occuparsene e di chiedere consigli. Occupiamoci del nostro alluce, e riguardo all'alluce valgo, oltre a scegliere delle scarpe adeguate, non a punta, si può fare qualcosa, soprattutto se notiamo, come mi stanno scrivendo alcune ascoltatrici, che è un po' un marchio di famiglia e quindi c'è una sorta di predisposizione all'alluce valgo? Sì, c'è assolutamente una predisposizione all'alluce valgo, tant'è che la forma della scarpa, il tacco, la scarpa punta, alcuni non li considerano veri e proprie cause dell'alluce valgo. C'è qualche cosa che sta dietro a questi aspetti. Certo, una scarpa alta, a punta, la calza di nylon che fa scivolare il piede verso la punta, sono tutti fattori che non aiutano. Però alla base c'è un fatto, una predisposizione costituzionale. Si può fare qualcosa mettendo un tutorino? Sì, certamente, si possono fare dei piccoli bendaggi funzionali che possono essere consigliati da personale esperto. Sono bendaggi che si mettono nella parte interna del piede, magari di notte, per togliere la tensione sulla cosiddetta cipolla, sì, e raddrizzare, riallineare l'alluce e farlo riposare. Un po' come l'apparecchio dei denti quando si metteva solo la notte, e farlo riposare. Un po' un apparecchio per alluce. su alluce e pollice me ne state raccontando davvero tante. 800 24 00 24 se volete parlarne con noi. E intanto Fabrizio, come promesso, ci ha chiamato da Cuneo, è in linea con noi. Buona giornata, Fabrizio. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Volevo chiedere un'informazione, diciamo, per mia suocera che è stata operata un mese e mezzo fa. Perché le viene da ridere, Fabrizio, scusi? No, è intuitiva lei, no, perché diciamo un pensierino anche per la suocera, ecco. No, ma carino. Ma carino, carino. Ecco, no, era questo il sorriso. No, dicevo, siccome è stata operata un mese e mezzo fa e... gli hanno diagnosticato appunto un mese e mezzo di convalescenza sdraiata, però io mi sono chiesto, non sarebbe meglio dopo diciamo 20-25 giorni iniziare a deambulare, farla un po' uscire di casa, Fabrizio? No, forse anche perché no, no, le suocere devono anche camminare rapidamente. Sì. No, Fabrizio, stiamo scherzando, ma no, la sua domanda è assolutamente chiara, dottor Melegatti. Ma sì, tutto questo tempo di immobilità mi sembra eccessivo, non vorrei che ci fosse qualche problema, nel senso che in genere si consigliano un paio di settimane di non appoggio e poi gradualmente, se per chi ha la possibilità, si riprende a camminare in piscina una volta che la ferita è a posto, e poi sulla terra con una gradualità che deve portare la persona nel giro di un mese a camminare normalmente. Quindi non vorrei che ci fosse qualche cosa, consiglierei di farsi rivedere dalla persona da cui è stata operata per capire meglio qual è il motivo per cui dopo 45 giorni non c'è ancora la deambulazione. Dottor Melegatti, stando occupandoci ancora di alluce, i traumi dell'alluce sono molto frequenti, abbiamo visto, e difficilmente si risolvono e si ritorna ad avere l'alluce di prima. Ecco, che cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori, ad esempio chi gioca spesso a calcetto, chi è sui campi sintetici, gioca a tennis? Sì. E in effetti c'è un problema ben conosciuto da noi che ci occupiamo di traumatologia, soprattutto traumatologia dello sport, relativa proprio allo stress dell'alluce del primo dito del piede. Gli anglosassoni lo chiamano toe turf, vale a dire alluce del terreno sintetico. Il turf è il terreno sintetico. È stato studiato bene nei giocatori di football americano, ma lo vediamo anche nei nostri campetti in persone che giocano a calcio. Questo non è altro che uno stress molto importante del primo dito, che trova un grip, un attrito eccessivo sul terreno sintetico e si provoca uno stress importante, una distorsione in flessione dorsale, con una lesione capsulare legamentosa importante. Quindi è bene stare attenti per esempio alle calzature. Adesso c'è la tendenza ad avere nel gioco del calcio delle calzature che hanno delle suole troppo morbide, e le scarpe attuali ne sono una prova, e quindi le calzature dovrebbero veramente rispettare un po' di più questo povero primo dito, che in presenza di una suola troppo morbida andrebbe incontro fa un po' la vece di una suola, anche lui preme troppo. Marilena, buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Marilena. Dottor Melegatti, lei ha fatto un distinguo tra le tenosinoviti, mi riferisco adesso, sto parlando del pollice, tra le tenosinoviti e invece altri danni, altre patologie che riguardano essenzialmente le ossa, no? Certo. Parliamo di artrosi. O le articolazioni, meglio. O le articolazioni, esatto. Allora, io sono una vittima del tennis, anche se non sono più giovane, però sa, oggi... per tenersi giovani si fa anche un po' di sport. Certo. E ho tenuto in mano una racchetta che non era quella giusta, perché quel giorno avevo scordato la mia, e da quel giorno io ho dolori che non riesco a farmi passare al pollice della mano destra. Sì. Ho fatto di tutto, ho fatto anche una radiografia naturalmente che ha confermato un'artrosi, però io riconduco il tutto al trauma del giorno in alla cui racchetta sbagliata. Esatto. Pensi quanti danni può fare una racchetta sbagliata, sì, dottor Melegatti. In effetti sembra una presa innocente, in realtà in effetti, se si sbaglia il grip può esserci molto stress a livello dell'articolazione, soprattutto metacarpo falangeo o trapezio metacarpale, quindi può esserci stato questo stress durante la partita del tennis che ha provocato, innescato un processo infiammatorio infiammatorio che adesso persiste, per cui bisognerebbe abbassare il livello di infiammazione a livello di questa articolazione con un piccolo tutore, per esempio, con qualche antinfiammatorio consigliato dal suo medico e con un po' di ghiaccio messo 2 o 3 minuti un paio di volte nella giornata. Il ghiaccio è un toccasana. Allora, alluce e pollice, abbiamo visto che ci possono dare tanti problemi, ma a volte proprio queste due dita danno una mano ad affrontarle. L'importante è individuare i punti giusti e affidarsi a mani giuste. Vedo che c'è una ferita sull'alluce qua. L'alluce è la testa. Lei si è voluto far male alla testa questa notte? Non sapevo se quei massaggi mi avrebbero fatto bene o no. Male certo non mi avrebbero fatto. E comunque era bello, piacevole. E quella mezz'ora lì mi rilassava molto. Da Caro Diario di Nanni Moretti, è in linea con noi, è tornato a trovarci Marco Mazzotta, riflessologo e terapista della Fondazione Apostolo. Bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno al dottor Maregatti, che ha dato delle spiegazioni bellissime, essendo lui medico, sulle scarpe da usare, che è una cosa importantissima. Importantissima. Marco, come lei spesso sottolinea, il riflessologo non è un medico, quindi non fa diagnosi, no, ma aiuta il medico ad affrontare un po' il problema, ad avere una terapia a 360 gradi. È di supporto alla medicina tradizionale per dare un aiuto in modo che il paziente, unito alla medicina tradizionale e alla riflessologia o altre terapie, sì, che possono essere l'agopuntura, lo shiatsu, altre terapie di supporto che possono dare degli ottimi risultati. Allora, però noi oggi abbiamo un alluce e un pollice, che possiamo, no, rubare un qualche suggerimento, qualche consiglio alla riflessologia? Abbiamo piccolissima, perché abbiamo un minuto e devo chiudere, ma rapidamente per portarci come a casa un'indicazione. E il pollice corrispondono alla nostra testa, al massaggiando al centro del pollice o dell'alluce sulla mano, sul piede a piacimento, si può, facendo delle piccole rotazioni sul centro del pollice e dell'alluce, si può rilassare l'ipofisi. Questa è una cosa che serve molto alle mamme quando i bambini non dormono, e quindi logicamente andando a massaggiare questa parte, però logicamente è una piccola perla perché bisognerebbe fare tutto un massaggio, però qui diamo invece un piccolo consiglio dove massaggiare: al centro del pollice o dell'alluce, con dei movimenti rotatori molto lenti, andiamo a rilassare la nostra ipofisi, quindi i bambini dormono molto meglio e si calmano. E proviamo anche con chi bambino non è più. Grazie, esatto, a Marco Mazzotta per essere stato con noi. Grazie a tutti, grazie a tutti, me legati ancora. Grazie. Grazie a lei. Allora, intanto io vi saluto, vi ricordo che online oggi dalle 15 alle 16 c'è il nostro dottor Ongaro sul blog Mangia con me. Ringrazio il dottor Melegatti per essere stato con noi, ringrazio voi che ci avete seguito, seguiteci anche su Twitter, scriveteci esserebenessere@radio24.it e come sempre vi devo ricordare di scaricarci. Grazie e buona giornata a voi. Essere e benessere.